tra pochissimi giorni uscirà un disco che per noi è molto importante, che vi abbiamo anticipato con l'uscita del singolo, è l'ultimo disco dei Calibro 35, Scacco al Maestro, volume 1. Per scoprirlo meglio, uscirà il 10, quindi tra pochissimi giorni, abbiamo raggiunto telefonicamente Tommaso Colliva che ci parlerà un po' di questo progetto. Intanto benvenuto Tommaso e grazie per essere qui con noi su Radio Città Fujiko. Grazie mille a voi e a tutta Radio Città Fujiko. Intanto iniziamo chiedendoti come va, anche perché siamo proprio a ridosso dell'uscita di questo disco e anche dell'inizio del tour, insomma, come sta andando? Va molto bene, anche perché è un progetto, questo di Scacco al Maestro, che ci stiamo covando da un po' di tempo, ma a causa, come tanti, ormai a causa della pandemia è stato rimandato più volte. E poi perché l'argomento Morricone nei Calibro è molto sentito, come in realtà il pezzo che abbiamo appena sentito è la primissima registrazione che Calibro 35 abbia fatto esattamente 15 anni fa, perché noi facemmo la prima sessione di registrazione il 20 di luglio nel 2007 e siccome non ci conoscevamo tutti e c'è stato proprio il momento del ciao io sono Tommaso, ciao io sono Fabio, ciao io sono Enrico, ok cosa facciamo? Ma facciamo questo pezzo qua, ed è quello che avete appena sentito, Trafelato di Ennio Morricone. Mi hai anche un po' anticipato la prima domanda che volevo farti, chiederti come mai Scacco al Maestro, appunto, che è un lavoro mastodontico dedicato al lavoro di Ennio Morricone, appunto di questo maestro, è uscito proprio adesso e proprio in questa forma dopo tanti anni in cui voi comunque lo omaggiate. Allora, è uscito per una concomitanza, ovviamente il fatto che purtroppo Morricone sia venuto a mancare è stata l'occasione per noi di, diciamo così, di rimettere a posto gli appunti che man mano abbiamo preso in questi 15 anni, perché come dicevo prima noi abbiamo iniziato proprio con un pezzo di Morricone, ma poi nel corso del nostro percorso abbiamo continuato ad andare a rivederci, ristudiarci cose diverse di Morricone. Qualche anno fa, nel 2017, ci invitarono a Londra per una serie di concerti bellissimi, si chiama Church of Sound, in cui ci sono ogni artista è chiamato a presentare un set di musica sua e un set di musica di qualcun altro, e noi scegliemmo di fare 50 minuti solo di musica di Morricone. Com'è andata la risposta del pubblico? È stata molto molto bello, anche perché sono concerti in una chiesa a Hackney, è stato proprio un bellissimo concerto, se lo chiedi a me probabilmente il più bel concerto che Calibro abbia mai fatto. Quando è venuto a mancare Morricone abbiamo detto ok, è il momento giusto di chiudere il cerchio, abbiamo iniziato con Morricone, cerchiamo di dire la nostra sull'argomento Morricone. Quindi siamo andati in studio e abbiamo registrato tutti i pezzi che avevamo voglia di fare, che sono tanti, e infatti il progetto uscirà su più volumi. Infatti io ti volevo anche chiedere questa cosa, come mai, infatti mi stai anticipando tutte le risposte, è meravigliosa questa intervista, perché ti volevo proprio chiedere come mai, insomma, avevate deciso di dividere in due quest'uscita, appunto la prima che sarà il primo di giugno e un secondo volume che arriverà più avanti, e quindi insomma mi hai già spiegato come mai. Ti chiederei però anche un'altra cosa, perché nella spiegazione del disco c'è scritto che è un lavoro che vuole indagare tutte le sfaccettature della musica di Morricone. È una domanda un po' forse superficiale, però ti chiederei quante sfaccettature siete riusciti a trovare e riproporre, riprodurre appunto del maestro all'interno di Scacco al Maestro. Morricone ha questa capacità di essere quasi infinito, per rispondere propriamente alla domanda che hai fatto, perché è una vita incredibile che si muove su talmente tanti registri comunicativi che ogni volta che vai, che riprendi in mano l'argomento, scopri un diverso punto di vista. Ed è questa, proprio questa secondo me è la sua più grossa grandezza, perché riesce a fare dei temi super comunicativi, dei timbri super comunicativi, trovare delle soluzioni come l'armonica piuttosto che lo scacciapensieri, piuttosto che il fischio, piuttosto che i temi di chitarra fat, che sono comunicativi a chiunque, non c'è rischio che non arrivino. Ma poi appena apri il libro Morricone e vai a capire ok, ma perché, come fa a comunicare così con tutti, scopri un livello di complessità incredibile, e la coesione di questi due aspetti è veramente stupefacente. Allora io ti chiederei, intanto ti ringrazio per questa spiegazione, ti chiederei se, visto che abbiamo ascoltato un pezzo all'inizio dell'intervista, hai voglia di sceglierne un altro da farci ascoltare, e ti chiederei anche se ci spieghi come mai hai fatto questa scelta. Ma questo pezzo che andiamo ad ascoltare è un pezzo strano, perché ci fa anche capire tutti i percorsi che la musica può avere. Nel nostro primo disco decidemmo di interpretare un pezzo di Morricone che si chiama Una stanza vuota, da un film che si chiama Sveglia ti uccidi, che è un pezzo sostanzialmente di chitarra solista. Qualche anno dopo ci arrivò la richiesta da parte di un artista elettronico inglese di utilizzare la nostra versione del brano per un suo brano, che scoprimo poi essere, che sarebbe stato il singolo del suo disco cantato da Damon Albarn. Per me il fatto che noi riportassimo alla vita una colonna sonora di Morricone, di quelle abbastanza sconosciute come Svegliati Uccidi, e che il nostro disco venisse nelle mani di un artista inglese che scegliesse di campionarci e che quindi esponesse questa musica a un pubblico a cui forse Morricone non sarebbe mai arrivato, è una cosa fantastica. È decisamente una storia molto bella e anche un giro molto lungo per questa musica, che però spiega anche come, essendo così tanto intensa, riesce ad arrivare anche dove probabilmente non ci saremmo immaginati in un qualche modo. Scacco al maestro, dicevamo, è la prima parte di questo lavoro, di questo disco, all'interno del quale ci siete voi, Calibro 35, ma ci sono anche delle voci che non fanno parte della normale formazione dei Calibro 35 e anche dei musicisti che non fanno parte della vostra formazione classica e abituale. Ti chiederei se hai voglia di introdurceli e di presentarceli. Assolutamente, diciamo che abbiamo, nel momento in cui ci è venuta l'idea di dire ok, facciamo un'opera così completa su Morricone, ci siamo resi conto che da soli non saremmo stati in grado, ci servivano i rinforzi, per cui durante tutto il disco ci hanno accompagnato Sebastiano De Gennaro alle percussioni e Beppe Scardino al sax baritono, e diciamo che loro ci sono in praticamente in tutti i pezzi del disco. C'è una parte di Valeria Sturba col theremin, che è stato un ottimo escamotage per risolvere uno dei problemi che c'è quando si tratta di Morricone, ovvero come sostituisci una voce così iconica come quella di Edda dell'Orso, e abbiamo capito che sostituirla con un'altra voce andrai sempre a perdere, perché nessuno è bravo come Edda dell'Orso. È impagabile. Proprio in Svegliati Uccidi c'è una parte di Valeria che sarà in tour con noi insieme a Sebastiano. E poi su Scacco al Maestro ovviamente ci sono anche archi e altri fiati più in sezione orchestrale, diciamo così. Oltre all'uscita dell'album ci sarà poi anche l'inizio del live tour che vi porterà in giro per un po' e del quale sono state annunciate le prime date. Ti chiederei se hai voglia di dirci un po' quali sono le date in cui potremo sentirvi dal vivo e anche se eventualmente c'è la possibilità di sentirvi nei paraggi di Bologna. Allora sì, noi faremo un primo tour quest'estate, e in cui saremo a Siena il 22 di luglio, Gardone Riviera il 23, a Vialfrè in provincia di Torino il 24 luglio e a Genova il 29 di luglio, ma so che ci sono altre date che si stanno aggiungendo per poi finire allo Spring Attitude a Roma il 17 settembre. L'idea è quella di portare in maniera molto fedele il disco dal vivo, quindi non sarà un concerto di Calibro 35, ci concentreremo interamente sul repertorio di Morricone. E troppo, come anticipavo prima, per fare questo non saremo solo noi sul palco. Ci sarà Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Valeria Sturba al theremin, al violino e la voce, e Paolo Raineri alla tromba. Molto bene, allora io ti chiederei se per concludere questa intervista in cui ci hai raccontato questo bellissimo lavoro che sta per uscire, hai voglia di dirci qualcosa anche sul singolo che ha anticipato l'uscita di questo disco, che ascolteremo insomma in chiusura di questa intervista, e sul come mai è stato scelto proprio questo pezzo per anticipare l'uscita di Scacco al Maestro. Nei Calibro siamo 5 persone che hanno dei background e delle stazioni completamente diverse, e questo io penso che, mentre da un lato causa innumerevoli problemi tra di noi, però arricchisce anche moltissimo quello che facciamo. Ci sono poche cose in cui siamo davvero sempre tutti d'accordo. Uno di questi argomenti è Ennio Morricone, di cui siamo tutti molto fan. Invece, cinematograficamente, un altro argomento di cui siamo tutti molto fan è Elio Petri. Se facciamo la commissione dei due, che si è verificata in vari film, è probabilmente una delle espressioni artistiche a cui tutti noi attribuiamo il maggiore valore. Come dicevo prima, il progetto Scacco al Maestro ce lo coviamo da un po' di anni, e quando abbiamo capito che c'era la possibilità di pubblicare il primo pezzo proprio il 1 maggio, è venuto automatico, anche per recuperare un significato sociale che la musica forse ha un po' perso negli ultimi anni anche a causa della pandemia. Il fatto di pubblicare un brano iconico come La classe operaia va in paradiso il 1 maggio ci sembrava una cosa molto bella e molto forte. Se a questo unisci il fatto che abbiamo potuto presentare il brano all'1 maggio di Taranto, che è una delle, mi viene a dire, una delle poche manifestazioni di quella portata di grandezza in Italia, che ha un significato, che ha qualcosa da dire, a cui si partecipa non per motivi promozionali, ma per motivi sociali e politici in senso ampio, per noi è stata una grandissima soddisfazione. Perfetto, allora ti ringrazio molto per essere stato con noi, per averci raccontato il vostro nuovo lavoro, il vostro nuovo tour che sta per iniziare, e allora ti ringrazio, ti saluto e ti auguro, insomma, un buon tour e un buonissimo lavoro allora con i Calibro 35. Grazie mille a voi, faremo un buon tour, ve lo prometto.